Blu Radio Veneto. Su Info, salute e società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Ben ritrovati all'appuntamento con So Info, la rubrica che osserva e approfondisce i temi della salute con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Nell'ambito del tema della medicina d'urgenza che stiamo affrontando in queste settimane, oggi chiudiamo l'ampia finestra aperta sulla violenza contro le donne. Gloria Desprats, presidente del Sor Optimist International Club di Treviso, ci racconterà di un'app specifica e di come la tecnologia oggi possa offrire un contributo prezioso per affrontare le problematiche sociali. La App Show è stata ideata e realizzata per dare informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione della violenza contro le donne. Si tratta di un service che è stato ideato dal Sor Optimist nazionale. Il club di Treviso ha partecipato con gli altri club italiani alla sua realizzazione. Si può scaricare l'app ed è possibile avere direttamente nel proprio smartphone o tablet una serie di servizi e informazioni utili sulla conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi in materia. E rende inoltre immediatamente visibile una lista dei principali centri antiviolenza presenti sul territorio. Sono facilmente accessibili dei tasti tramite i quali è possibile chiamare il numero 112 o il numero verde di pubblica utilità 1522. L'app è stata tradotta in ben 12 lingue e la si può scaricare direttamente dal sito www.appshow.it. Faccio lo spelling per maggiore chiarezza: www.appshow.it. Ora cambiamo pagina, occupandoci di un importante servizio offerto dal reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Treviso, il pronto soccorso ginecologico. È con noi, per fornirci tutte le informazioni a riguardo, il primario dottor Enrico Busato. Il pronto soccorso ginecologico dell'ospedale di Treviso occupa uno spazio molto importante nell'ambito dell'attività del reparto stesso, perché a questo servizio afferiscono mediamente 4.500 donne ogni anno. Di queste 4.500 circa 120 esitano poi in ricoveri urgenti e questi poi possono andare a proseguire l'iter con intervento di tipo chirurgico. Si può accedere al pronto soccorso o mediante impegnativa del medico di medicina generale oppure passando attraverso il pronto soccorso centrale, con il quale è stata attuata una collaborazione con il pronto soccorso stesso, una procedura che viene denominata fast track, cioè una procedura con la quale le pazienti che accedono al pronto soccorso centrale hanno una via preferenziale, in quanto se rientrano in alcuni criteri di inclusione vengono immediatamente indirizzati presso il pronto soccorso del nostro reparto senza dover effettuare l'attesa per essere visti dal medico del pronto soccorso stesso. Nell'ambito di questo, l'attività, le patologie, meglio, che più sono soggette alle visite sono le perdite ematiche solitamente all'inizio di gravidanza e i dolori addominali e pelvici. Questi sono i motivi per cui le persone principalmente afferiscono al nostro ambulatorio, e poi abbiamo anche una percentuale di casi che purtroppo afferisce al nostro ambulatorio in quanto sono donne che hanno subito delle violenze, degli episodi di violenza. E tra queste, negli ultimi 10 anni si sono verificati circa una cinquantina di casi, 12 casi, pressa poco come numero, 12 casi sono stati violenze su minori, e quindi con una percentuale di circa un quarto delle pazienti e questo purtroppo è un episodio che deve far riflettere, perché questi sono i casi che arrivano a noi, ma ce ne sono molti altri che non afferiscono alle strutture ospedaliere e quindi che non possono essere monitorati e che magari vengono rimangono ecco, all'interno delle proprie mura senza segnalare questi episodi. Soinfo, salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.